perfetto giorno di Simone Spezia. È iniziata l'analisi della scatola nera dell'aereo caduto in Francia. Cause ancora inspiegabili, dicono da Lufthansa, l'Airbus era in perfette condizioni. Operazione contro una cellula jihadista in Italia, emanete anche un ventenne, autore del documento di oltre 60 pagine sull'ISIS in italiano. Ne parleremo più avanti col ministro dell'interno, Angelino Alfano. Lo Yemen intanto è di nuovo nel caos. I ribelli sciiti hanno conquistato una base aerea americana. Il presidente è in fuga, su di lui una taglia. La fiducia nell'Italia si sta consolidando, dice il ministro dell'economia Padoan dal Salone del Risparmio. Difficile tornare ai livelli pre-crisi. Ora tensioni nella maggioranza sulla prescrizione, i 5 Stelle pronti a votare il testo se non cambia. Grasso sulla corruzione, troppi ritardi per il DDL. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. L'audio di fondo che probabilmente un po' sentirete è perché oggi siamo in diretta anche noi, così come lo era Cuore e Denari, dal Salone del Risparmio che si sta svolgendo a Milano e sul quale torneremo tra poco, soprattutto con le parole del Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, che ha partecipato all'inaugurazione. In apertura i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook e durante la diretta il numero di SMS. Se il 349-238-6666. In apertura anche oggi l'aereo che è caduto in Francia, l'aereo della Germanwings in viaggio tra Barcellona e Francoforte, tutti i dubbi che riguardano questo incidente aereo. Il servizio. Sono riprese all'alba le ricerche della seconda scatola nera e dei resti delle 150 vittime dell'Airbus 320 precipitato sulle Alpi francesi. Sul posto sono arrivati stamattina i medici legali per il recupero di quel che resta delle vittime, così ha spiegato Xavier Roy, il coordinatore dei soccorsi. Stiamo mettendo in sicurezza la zona dell'incidente, ha detto. Gli esperti sono alla ricerca di indizi, un lavoro molto complesso. Dall'alto, hanno detto alcuni soccorritori, si vedono alcuni corpi. La stampa è stata allontanata, stanno arrivando sul posto anche alcuni familiari. Si cerca anche la seconda scatola nera, mentre la prima, recuperata ieri pomeriggio, è stata danneggiata. Le autorità sembrano aver escluso la possibilità di un attacco terroristico e ci sono novità sull'identità dei passeggeri che hanno perso la vita. A bordo c'erano anche 3 cittadini del Kazakistan, un cittadino israeliano, 2 cittadini nipponici e almeno 3 britannici. Oggi i voli Germanwings saranno regolari tranne uno che è stato cancellato. Per identificare i corpi, dicono i soccorritori, ci vorranno dei giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su tutto questo torneremo nella seconda parte della trasmissione e su tutti i dubbi che riguardano le ricostruzioni che si stanno facendo in queste ore. Nel frattempo passiamo alla cronaca italiana e all'operazione antiterrorismo che si è svolta questa mattina contro presunti jihadisti. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno. Operava fra l'Italia e i Balcani la cellula di estremisti islamici. Al centro di questa operazione, coordinata dalla Procura e dalla Digos di Brescia, sono 3 le persone arrestate. Si tratta di 2 albanesi, zio e nipote, e di un 20enne italiano, figlio di marocchini. Secondo gli inquirenti, questo gruppo reclutava aspiranti combattenti e faceva propaganda per lo Stato islamico. Oltre agli arresti che sono avvenuti a Torino e in Albania, ci sono state una serie di perquisizioni in varie città italiane e un ordine di arresto è stato emesso anche nei confronti di un marocchino residente nel Bresciano. Questo marocchino era stato arrestato nel 2013 ma poi scarcerato e ora si troverebbe invece a combattere in Siria. Ad un altro giovane che era stato avvicinato dal gruppo sono stati invece sequestrati i documenti per l'espatrio prima che potesse partire. È un italo-tunisino residente in provincia di Como che ora è sottoposto al regime di sorveglianza speciale previsto dal nuovo decreto antiterrorismo. Uno dei 3 fermati, lo dicevi nei titoli, è un 20enne di origine marocchina, sarebbe l'autore del documento di propaganda per l'ISIS scritto in italiano e apparso in rete nelle scorse settimane. Su questo sentiamo il procuratore capo di Brescia, Buonanno, poi la linea può tornare a te, Simone. Gli si contesta di aver diffuso sulla rete internet il documento intitolato Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare, ed è il primo documento redatto in lingua italiana di propaganda dell'ideologia estremistica musulmana. E grazie ad Andrea Viali per questi aggiornamenti su questo documento, l'analisi di Daniele Biacchessi. 64 pagine fitte, pensate per il web, scritte con un linguaggio popolare. Il giovane ventenne arrestato dalla polizia come reclutatore di combattenti italiani per conto dell'ISIS dovrebbe essere dunque l'autore di questa sorta di risoluzione strategica del terrorismo jihadista degli anni 2000. Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare. Questo è il titolo del documento che illustra nel dettaglio le attività dello Stato Islamico nei territori occupati dall'ISIS, descrivendolo come una organizzazione statale che offre benessere e protezione ai suoi cittadini e allo stesso tempo spietato con i suoi nemici. Secondo gli inquirenti, la sua importanza non risiede tanto nei contenuti quanto piuttosto nel fatto che è stato ideato per essere destinato specificatamente ad un potenziale pubblico italiano o comunque di lingua italiana. È firmato il vostro fratello in Allah Mehdi e ha l'aspetto di una vera e propria brochure aziendale, contiene foto e grafici. Maometto, si legge, ordinò in una di ascoltare l'accusato allo stesso modo di come si è ascoltato l'accusatore. Ma ai giorni d'oggi invece la maggior parte dei musulmani ha giudicato l'entità dello Stato Islamico prestando attenzione solo agli accusatori. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci spostiamo nello Yemen adesso, dove i ribelli avrebbero conquistato una base americana. Le notizie che stanno arrivando in queste ore sono, a dir la verità, piuttosto confuse, anche per quel che riguarda la sorte del presidente. Laura Bettini per un aggiornamento. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina la televisione Al-Masirah ha annunciato la conquista da parte dei ribelli sciiti Houthi della base militare aerea di Al-Anad e la fuga del presidente Hadi dalla città di Aden. La fonte però è un po' discutibile, la televisione è di proprietà dei ribelli, ma queste notizie, se sono messe in relazione agli avvenimenti dei giorni scorsi, acquistano una sostanziale credibilità. Per motivi di sicurezza gli Stati Uniti avevano infatti appena evacuato il proprio personale dalla base di Al-Anad, rinunciando quindi a un punto che fu un tempo strategico per la caccia ad Al-Qaeda. Da lì partivano aerei e droni. L'Arabia Saudita ha effettuato massicci spostamenti di truppe, le ammassate sul confine con lo Yemen. Ricordiamo, i ribelli sono una minoranza sciita sostenuta dall'Iran e quindi combattuta dai sunniti qaedisti, ma anche dall'Arabia Saudita stessa. Il presidente yemenita, che anche ieri aveva chiesto all'ONU di autorizzare l'immediato intervento di paesi volenterosi per fermare l'avanzata delle milizie Houthi, sarebbe fuggito da Aden, appunto, dove si era rifugiato quando la capitale Sana'a era caduta in mano ai ribelli. Ora, secondo alcuni, ha lasciato la città, secondo altri è stato semplicemente trasferito in un luogo più sicuro. Comunque al momento sulla sua sorte non si hanno notizie più precise. Sarebbe stata messa su di lui una taglia da $100,000 da parte dei ribelli. Al Jazeera poi aggiunge un altro tassello, dice che il ministro della difesa dello Yemen, il generale Al-Sobhi, sarebbe stato arrestato oggi dalle milizie sciite. Insomma, dobbiamo aspettare le prossime ore però per conferme, Simone. Grazie intanto a Laura Bettini e dovremmo essere in grado di collegarci con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che in questo momento è ad Ankara ma è esperto anche di quelle zone dello Yemen dove è stato. Alberto, buongiorno. Mi dicono evidentemente che Alberto Negri non ce lo abbiamo, non riusciamo ad averlo in collegamento. Dunque, passiamo nel frattempo alla politica e poi cercheremo di recuperare Alberto Negri se ci riusciamo per farci raccontare un po' quello che succede. Nel corso della trasmissione ci collegheremo anche tra l'altro con un operatore umanitario che si trova a Sana'a, che è la capitale dello Yemen. La politica dunque ci porta ancora sui temi della prescrizione e della corruzione, temi che stanno spaccando la maggioranza. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Due temi, terreno di scontro all'interno della maggioranza. Ieri lo strappo del nuovo centrodestra che si è astenuto sul primo provvedimento, allineandosi di fatto a parte delle opposizioni. Oggi i commenti degli esponenti centristi: mi auguro che al Senato si possa far capire a Renzi che il governo non è monocolore PD, dice la De Girolamo. Ad entrare nello specifico della prescrizione, il ministro Alfano, che ribadisce il punto e la durata dei processi, il cittadino deve sapere che c'è un momento in cui lo Stato dice basta perché non ce la fa a dimostrare mostrare la consapevolezza, a lavorare per una mediazione ancora. Intanto in queste ore il ministro della giustizia Orlando, Palazzo Chigi sa molto bene infatti che gli alleati di governo, ininfluenti alla Camera, lo sono invece al Senato, e sarà proprio a Palazzo Madama dove sarà necessario trovare un compromesso che potrebbe concretizzarsi attorno ad una diminuzione ad un quarto dell'aumento dei tempi della prescrizione. Il testo potrebbe essere approvato invece con poche modifiche qualora vi fosse la convergenza dei 5 Stelle, che si dicono pronti a dire sì a patto che la riforma non venga annacquata. Altro capitolo, quello della corruzione. L'Aula del Senato ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Forza Italia. Al testo sono stati presentati però oltre 200 emendamenti. Tra poco la capigruppo stabilirà i tempi del dibattito. Sui tempi interviene anche il Presidente del Senato Grasso, che dice: spero che il provvedimento sia approvato entro la settimana. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Dunque, stiamo trasmettendo qua in diretta dal Salone del Risparmio, a seguire la mattinata. C'è stata la nostra Valeria De Rosa, che abbiamo in diretta per un racconto e per sentire anche che cosa ha detto il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Sentiamo, Valeria. Sì, Simone, grande affluenza come sempre al Salone del Risparmio, tanto che molti questa mattina non hanno potuto accedere all'auditorium dove si è svolta la conferenza inaugurale perché la sala era ormai piena. La sesta edizione si è aperta sulla scia di dati molto positivi. Assogestioni li ha comunicati ieri: 133 miliardi la raccolta netta del 2014, 29 miliardi la raccolta dei primi due mesi del 2015. Anche Assoreti ha diffuso i suoi dati. A febbraio la raccolta netta per le reti di promozione finanziari è stata pari a 2,8 miliardi di euro, miglior risultato mensile da inizio 2010. A spiegare il ritorno al risparmio da parte degli italiani è stato lo stesso ministro Padoan, intervenuto questa mattina. L'uscita dalla crisi è un momento di mutazione profondo, ha ricordato il ministro. E quindi nel momento in cui il risparmio passa da una situazione di resistenza alla crisi a una situazione di atteggiamento proattivo orientato al futuro, diventa ancora più importante la questione delle opportunità che si offrono ai risparmiatori. È quindi in atto un processo di riallocazione verso forme di investimento più rischiose, nel senso buono del termine. L'Europa e l'Italia hanno forte bisogno di più investimento, più propensione al rischio, soprattutto se questo rischio è collegato a un orizzonte temporale lungo. Queste condizioni determinano la necessità di rendere più consapevoli i risparmiatori e più aperto il mercato a prodotti innovativi, diversificati e remunerativi. In questa ottica, ha detto Padoan, va intesa la finanza per la crescita, strumenti non bancari per supportare le imprese, soprattutto le medie e piccole, per catalizzare quindi la ricchezza verso progetti di investimento di medio e lungo periodo. Canali alternativi di finanziamento per le imprese vanno sviluppati, ha detto il ministro, anche se poi non ha mancato di sottolineare alcune criticità. Ci sono fattori che sono ancora elementi di resistenza alla quotazione delle imprese, nella scarsa propensione di molti imprenditori a cedere possibili quote di controllo dell'azienda e a rischiare passaggi di controllo dopo la quotazione. L'introduzione della facoltà di emettere categorie di azioni a voto plurimo per le società non ancora quotate può rappresentare un buon punto di equilibrio tra l'esigenza di crescita delle PMI, grazie alla quotazione, e il mantenimento di un ruolo chiave da parte dei soci di controllo che hanno dato vita a quell'azienda. La finanza per la crescita, ha sottolineato il ministro, è in linea con il programma europeo Capital Market Union, il mercato di capitali integrato dell'Unione Europea. E poi Padoan ovviamente ha fatto anche un punto su quella che è la situazione italiana. Si apre per l'Italia una finestra di opportunità che però non ci riporterà indietro. C'è molto da fare in Europa, il governo si sta impegnando ancora di più per questo, ma soprattutto l'Italia ha già recuperato la fiducia degli investitori, la fiducia delle istituzioni internazionali. Ora deve definitivamente riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, e questo è quanto ha detto Padoan. È iniziata l'analisi della scatola nera dell'aereo caduto in Francia. Le cause sono ancora inspiegabili, dicono da Lufthansa. L'Airbus era in perfette condizioni. Operazione contro una cellula jihadista in Italia, manetta anche un ventenne, autore del documento di oltre 60 pagine sull'ISIS in italiano, almeno presunto autore. Lo Yemen è di nuovo nel caos. I ribelli sciiti conquistano una base aerea americana. Il presidente in fuga da Aden. Su di lui è stata messa una taglia. La fiducia nell'Italia si sta consolidando, dice il ministro dell'economia Padoan dal Salone del Risparmio. Ed è proprio da qua, dal Salone del Risparmio, che vi stiamo trasmettendo oggi, così come faranno altre trasmissioni nei prossimi giorni di Radio 24. Tornerà domani Cuore Denari e poi sempre domani ci sarà Focus Economia. Noi ritorniamo su uno dei nostri titoli di apertura, ossia questa operazione di polizia contro presunti jihadisti in Italia. Saluto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Una sua prima valutazione su questa operazione, ministro. È un'operazione molto importante che dimostra che il sistema della prevenzione funziona. È il primo caso di un documento di questo genere di propaganda che si è scritto in italiano, e l'uso che noi abbiamo fatto di tutta la nostra struttura per individuare costoro è stato anche agevolato da una cooperazione con l'Albania. Mi sono già congratulato con il collega e amico ministro dell'Interno albanese. Quello che voglio sottolineare è che anche per i non arrestati, gli arrestati sono tre come dicevano anche i vostri titoli, anche per i non arrestati sono state usate delle misure molto dure, e per la prima volta è stata usata una norma del decreto approvato il mese scorso, quello che ho proposto io sull'antiterrorismo, che applica le misure di prevenzione, la sorveglianza speciale tipicamente usata fin qui per i mafiosi, anche ai sospettati di terrorismo. Ministro, lei dice è la dimostrazione che la prevenzione funziona, qualcun altro dice è la dimostrazione che l'ISIS è qua, insomma, i rischi che corriamo sono reali? Noi abbiamo lavorato sulla prevenzione molto duramente, sono 25 i soggetti allontanati dal territorio nazionale dalla fine dello scorso mese di dicembre, 25 espulsi, quindi tutte iniziative di sicurezza nei confronti di estremisti islamici, e questa è un'ulteriore prova che la prevenzione funziona. Poi se lei mi chiede, noi siamo un paese a rischio zero, io le rispondo che noi non siamo un paese a rischio zero, che non esiste un paese a rischio zero, sebbene noi non abbiamo ancora la traccia, la prova di una minaccia specifica. Anche in questo caso si stava parlando di azioni di reclutamento nei confronti dell'Islamic State. Dal punto di vista dei prossimi mesi e di quello che ci possiamo attendere, ministro, immagino altre operazioni di questo tipo, perché comunque una certa diffusione nel territorio, a guardare anche l'operazione di questa mattina, c'è evidentemente. Noi abbiamo una grande insidia, e stavolta per noi non intendo solo l'Italia, ma intendo la comunità internazionale, le grandi democrazie, l'Occidente, ed è quello dei lupi solitari, cioè dei lone wolves, di coloro i quali ritengono di poter agire in solitario, non aderendo neanche a una cellula nella gran parte dei casi, ed è proprio per questo che si chiamano lupi solitari, che vogliono realizzare la strategia dei mille tagli, cioè di un dissanguamento del nemico attraverso mille piccoli o grandi gesti di attentato al fine proprio di contrastare il nemico. Ovvio che prevedere l'insidia che si annida nella mente di un uomo che rifiuta l'Occidente, che ha un rifiuto nei confronti della società dove magari è stato cresciuto, educato, dove ha vissuto, è molto difficile prevedere la mente di un uomo che decide di fare un attentato. Noi siamo al lavoro con le nostre migliori energie, il livello di allerta rimane altissimo, abbiamo costituito anni fa un comitato di analisi strategica antiterrorismo che si riunisce settimana dopo settimana e che mette insieme tutte le competenze migliori dell'intelligence e delle forze dell'ordine per riuscire ad avere analisi sempre aggiornate. Scambiamo le informazioni con coloro i quali in Europa cooperano con noi, cioè i paesi europei, ma anche fuori, oltreoceano. Contemporaneamente abbiamo rafforzato le misure normative. Il decreto attualmente in conversione prevede l'applicazione anche ai sospettati di terrorismo delle regole e delle misure di prevenzione che si applicano ai sospettati di mafia, quindi un'accentuazione del controllo di polizia che è valso anche questa mattina durante l'operazione condotta come a Brescia. Ci diceva del resto, e poi anche un maggiore potere ai magistrati di spegnere quei siti web nei quali si verifica il rischio di un proselitismo nei confronti di potenziali terroristi, cioè, oppure in cui si inneggia all'odio. Contemporaneamente rafforzamento dei poteri di ritiro del passaporto e pene altissime per coloro i quali vanno a combattere all'estero a fianco dei terroristi. Perché un conto è essere reclutatori, un conto è andarci da soli. Nell'un caso erano già punibili i singoli combattenti stranieri, quelli che vanno a combattere in terra straniera e che poi magari tornano, non erano punibili e lo diventano grazie al nostro decreto. Grazie al vostro provvedimento. Ministro, però su questo provvedimento si sono appuntate, soprattutto nell'operazione che si sta facendo, nell'operazione di conversione che si sta facendo, si sono appuntate le critiche del garante della privacy. Dice, insomma, qua tra le esigenze di indagine e le esigenze di privacy si sta virando un po' troppo sulle esigenze di indagine. Tra le altre cose c'è questa previsione di utilizzare i cosiddetti captatori occulti per verificare le ricerche su internet e non solo, almeno stando a quanto appare generico, come detto nella legge, non solo per finalità di terrorismo. C'è un fronte di preoccupazione da questo lato? Noi abbiamo trovato nel decreto un punto di equilibrio molto significativo, facendo sì che possa essere il giudice, certamente non un funzionario di polizia oppure men che meno un singolo ministro, a spegnere un sito internet. E questo è un punto di equilibrio, secondo me, ragionevole. Anche perché internet è un grande luogo di cultura e il deposito del sapere universale. Ministro, ministro, più che lo spegnimento, qua è il controllo delle persone, sì, il punto. Ecco, le stavo dicendo. E dunque noi crediamo di avere trovato un punto di equilibrio. Le considerazioni del garante della privacy, ecco, quindi distinguo rispetto a quello che abbiamo fatto noi come governo, riguardano alcuni emendamenti di origine parlamentare che, ad avviso del garante della privacy, sbilanciano tutto sul versante del controllo di polizia piuttosto che del diritto di manifestazione del pensiero e di comunicazione, per cui noi saremo attentissimi nella valutazione di questo aspetto di equilibrio, perché la sicurezza deve essere un valore sempre bilanciato dal mantenimento degli altri diritti di libertà, a cominciare da quello della libera manifestazione del pensiero. Se ci fa caso, è un po' lo stesso dibattito che c'è sulle intercettazioni. Cioè, si può intercettare a go-go violando la privacy oppure ci vuole un punto di equilibrio. Quindi nel nostro tempo moderno il problema di conciliare, in ragione dell'evoluzione tecnologica, la capacità invasiva delle indagini attraverso gli strumenti tecnologici con i diritti di libertà, a cominciare a quello di privacy, cioè di riservatezza, è un tema nel nostro tempo assolutamente centrale. Assolutamente centrale. L'ultima domanda che le voglio fare è una domanda come leader del nuovo centrodestra. Si sono addensate molte tensioni all'interno della maggioranza in merito al provvedimento sulla prescrizione che ieri è stato approvato. Tra le vostre critiche, in particolare l'articolo 1 che allunga i tempi di prescrizione per quanto riguarda i casi di corruzione. Il ministro Orlando ha aperto a modifiche in Senato e però sembra che su questo tema della corruzione lo stesso Orlando sia stato anche abbastanza rigido, cioè ha detto signori, su questo è difficile tornare indietro. Noi abbiamo approvato l'aumento delle pene riguardanti la corruzione. Noi abbiamo approvato l'aumento dei tempi di prescrizione in Consiglio dei Ministri. Ora la questione di fondo è se la prescrizione può avere una data eterna oppure no. Io non so se sono indiscreto, Spezia, se le chiedo quanti anni ha lei. No, non è indiscreto, ne ho 38. Se lei fosse indagato sciaguratamente per corruzione a 38 anni e fosse assolto a 59 anni, dopo 21 anni, a lei che gliene frega dell'assoluzione? Allora il punto essenziale è che ci vogliono processi brevi, perché se noi mettiamo in campo un meccanismo per cui ti assolvono dopo 20 anni, non te ne frega quasi più nulla di essere assolto. Allora ci deve essere un processo breve che ci metta nelle condizioni di dire agli indagati: tu non giochi con la prescrizione e dunque noi te la allunghiamo. Ma arriva un momento in cui lo Stato, se non riesce a provare la tua colpevolezza, vuol dire che non ha la prova. Ecco, mi faccia capire a livello politico che cosa vuol dire questo. Vuol dire che nel caso si spinga di più per un processo più breve, sareste disposti ad accettare la soluzione che è uscita dalla Camera? Per noi la questione di fondo è accelerare i tempi del processo e dare al cittadino la certezza che quel processo non può durare all'infinito. E poi voglio ribadire perché la prescrizione si calcola sull'entità della pena e poi con i tempi generali di durata della prescrizione. Allora, riguardo l'entità della pena, noi abbiamo aumentato la pena della prescrizione e quindi abbiamo già di fatto implicitamente aumentato la prescrizione per la corruzione, perché si è aumentata la pena della corruzione. Contemporaneamente abbiamo aumentato di un terzo in Consiglio dei Ministri la durata della prescrizione, quindi c'è un terzo più quel che emerge dall'aumento della pena della prescrizione. La somma fa tanto. Ora, rispetto a questo tanto di allungamento che fa la somma, l'ala giustizialista del PD ha voluto aggiungere un qualcosa. Secondo noi, poi, quando tu arrivi a 21 anni, la assoluzione diventa pressoché inutile, perché hai già devastato la vita di una persona. La nostra idea è dunque di non scaricare sul cittadino la giustizia lumaca. Se la giustizia lumaca deve andare più veloce, non si può immaginare di caricare tutto il peso sulle spalle del cittadino, perché la statistica giudiziaria italiana ci dimostra come non tutti i cittadini indagati poi siano condannati. Se fosse così saremmo certi che si va a colpo sicuro tendenzialmente, ma siccome sappiamo che un'ampia parte poi viene assolta, quell'ampia parte che viene assolta, se viene assolta dopo 20 anni, hai rovinato la vita alle persone che non hanno avuto poi neanche il tempo di rifarsela una vita dopo 20 anni. Chiarissimo, grazie al Ministro dell'Interno Angelino Alfano, e saluto Gianluca Ansalone che torna nostro ospite, docente di geopolitica e strategia alla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Ansalone, benvenuto. Buongiorno, grazie. Commentare anche con lei, così come abbiamo fatto col Ministro, gli arresti di questa mattina. A suo giudizio e a sua visione, da quel che possiamo vedere, è la testimonianza della presenza di una rete o siamo ancora di fronte a cani sciolti? Siamo di fronte a piccole reti che cominciano a organizzarsi sulla spinta del richiamo verso il reclutamento in direzione di Siria e Iraq, e quindi verso lo Stato Islamico. Gli arresti di stamattina ci dimostrano che, ovviamente lo avevamo già detto in alcune altre occasioni, l'Italia è una piattaforma ideale per il terrorismo in termini di trasferimento, di passaggio di personale che poi viene mandato verso il fronte, ma anche di reclutamento soprattutto di alcune giovanissime leve verso il fronte medio orientale. Però mi permetto di dire che gli arresti di stamattina ci pongono anche un'altra questione. Noi siamo giustamente e opportunamente concentrati sullo scenario nordafricano e medio orientale, che è quello al momento più problematico e che ci preoccupa di più vista la vicinanza geografica. Dobbiamo però tornare a porre attenzione molto forte sui Balcani, che sono altrettanto un'area di prossimità ed un'area storicamente rilevante del reclutamento di manodopera jihadista, per così dire, di forte propaganda, ma anche e soprattutto di reperimento di denaro fresco che va a finanziare le organizzazioni terroristiche. La ringrazio, grazie a Gianluca Ansalone, come sempre molto chiaro e molto preciso, e anche nei tempi, questo glielo devo dire. Grazie Gianluca Ansalone, docente di geopolitica e strategia alla SIOI, ancora una volta per averci chiarito un po' di cose in merito alla presenza terroristica in Italia. Saluto Marco Valentini, che è un operatore umanitario che si trova nello Yemen, a Sana'a. Buongiorno Valentini, benvenuto. Buongiorno a voi. Probabilmente i nostri ascoltatori sentiranno un minimo di ritardo per questioni telefoniche, evidentemente, perché stiamo parlando con lo Yemen. Si trova a Sana'a, che è la capitale dello Stato, ma oggi gli eventi principali si sono svolti ad Aden, no? Che è questa sorta di capitale provvisoria scelta dal presidente Hadi, che è dovuto fuggire per una seconda volta, perché era già dovuto fuggire su pressione dei ribelli sciiti da Sana'a. È andato ad Aden, ci ha stabilito la capitale provvisoria ed è dovuto fuggire di nuovo. Adesso i ribelli sciiti avrebbero messo addirittura una taglia sulla sua testa, oltre ad aver conquistato una base americana. Valentini, io vorrei capire da lei innanzitutto qual è la situazione a Sana'a, che dovrebbe essere appunto la capitale del paese. In questo momento la situazione è molto calma. Dopo gli attentati che ci sono stati venerdì scorso, la situazione nella città pare calma. I funerali delle vittime si stanno svolgendo senza particolari problemi, senza particolari tensioni, però tra la gente c'è ancora molta tensione e c'è molto timore che nei prossimi giorni ci possano essere altri attacchi suicidi come quello della settimana scorsa. Perché quello che è successo, Valentini, giusto per spiegarlo ai nostri ascoltatori, è che ci sono stati degli attacchi contro delle moschee sciite da parte di persone che l'hanno rivendicato come ISIS, e quindi da parte dei sunniti in sostanza. Esattamente, sì, ci sono stati due attacchi nella città di Sana che hanno avuto come obiettivo due moschee che sono normalmente usate dagli sciiti, mentre c'è stato anche un terzo attacco che invece è avvenuto nel nord, nella città di Sada, che è un po' la roccaforte dei ribelli sciiti da cui sono partiti l'anno scorso. E questo appunto è quello che è successo nella capitale Sana'a. È un luogo, io non so se posso chiederle di azzardare un'analisi della situazione, nel quale si sta sostanzialmente combattendo una guerra, la possiamo definire una guerra per procura, per così dire, all'interno dello Yemen. Sì, possiamo dire che le varie parti che sono coinvolte nel conflitto di questo paese hanno dei contatti con paesi stranieri. I ribelli sciiti che vengono dal nord sono sostenuti dall'Iran, mentre il governo dello Yemen e il presidente Hadi sono sostenuti dai paesi del Golfo e in primo luogo dall'Arabia Saudita. Per cui possiamo dire che si tratta quasi di una guerra per procura svolta da queste due potenze regionali. Valentini, a suo giudizio, visto che vive là e lavora là sostanzialmente, come potrebbe evolvere la situazione a questo punto? Che cosa potrebbe succedere nel paese? Che, lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori, ce ne occupiamo perché è un luogo remoto, ma è anche un luogo molto vicino e uno dei luoghi dai quali è partito molto del terrorismo che abbiamo visto in questi anni, compreso l'addestramento degli uomini che hanno operato e dei terroristi che hanno operato contro Charlie Hebdo, il settimanale francese. Prego Valentini, come può evolvere secondo lei? Ma purtroppo questo è un paese incredibilmente complicato, dove ci sono una miriade di gruppi e ogni gruppo si rivolge contro gli altri e allo stesso tempo le alleanze possono cambiare molto in fretta, per cui è molto difficile capire come la situazione possa evolversi. Diciamo che dopo quello che è successo questa mattina, la fuga di Hadi da Aden, probabilmente il paese verrà controllato da questi ribelli sciiti. Però la loro capacità di poter controllare tutto il paese rimane molto limitata. Il timore da parte della gente, il timore da parte di molti yemeniti è che dietro tutto questo ci sia lo zampino del presidente Ali Abdullah Saleh, che era stato defenestrato nel 2011 e che al di là di tutti questi problemi ci sia lui che sta cercando di riconquistare il potere. Questo sarà possibile vederlo soltanto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Purtroppo questo paese sta vivendo anche un'incredibile emergenza umanitaria, dove quasi metà della popolazione non ha sufficiente accesso al cibo e dove i livelli di malnutrizione sono tra i più alti al mondo. Per cui quello che ci preoccupa principalmente non è tanto il discorso politico, ma è come e quanto possiamo permetterci di aiutare la popolazione a superare questo momento di difficoltà. È il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Hello, Carson. Let's go to your room. You don't have to do this. I'm a day trader. I could just go home. You're good. Make it worth your while. Take you to an ATM. There's 14 grand in it. Everybody just walks away. E quella che avete sentito è una scena di No Country for Old Men. Il Texas non è il paese, la regione giusta per le persone anziane, per i vecchi. È un film dei fratelli Coen che ha vinto il premio per miglior film. Perché vi parlo del Texas? Beh, perché c'è un movimento